Perché la musica è importante, è tanto importante che questa volta non abbiamo messo nemmeno lo spot. Musica, maestro. Mi viene in mente un mio amico sabato sera che ha detto: no, in questo posto non riesco a starci, madonna, sto cam-. Un mio amico un po' a una certa. Attempato. E ha detto: ma in questo posto non ci riesco a stare, questa musica, la musica è una cosa importante. Vai. Vedi? Tutto torna. Io, guarda, a questo punto, vista l'ora, perché lo dobbiamo dire, noi stiamo registrando la puntata, ci sentirete di giovedì ma non in diretta, perché avevamo degli impegni giovedì molto importanti, molto quest'anno lavorativi. È un gran casino mantenere la programmazione brusca, probabilmente dovremo cambiare giorno, sì, perché se continua sì, così sì. Non ci sa, però oggi registriamo, oggi non è giovedì ma per voi lo sarà. E chissà, visto che per noi è un orario un po' così da TG, allora io manderei subito questo amorevolissimo pezzo. Giusto così. Qui volendo ci si può anche ballettare un po'. Potrebbe essere il sottofondo della puntata. È stupendo questo pezzo. A letto. Ci rifletto. C'è una grande festa quella brusca. Sei così carina sotto la copertina, però sei un poco troppo precisina. Carina. Basta ballare, Nina. E allora amore, quando sto osservando il mutandari che abbiamo in regia. In realtà è bello. C'ha un suo. Abbiamo un suo reso perché. La regia protagonista del Novecento. Ah, Serena. Vengo e mi metto lì. Ho detto sì. Vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG. Per star vicino a te. Al TG hanno detto che fanno 28 gradi oggi. Io muoio. Va bene, questo sarà il sottofondo di tutta la puntata. Attenzione, possiamo andare avanti oppure. Vengo e rimango lì. Dopo il TG. Bene. Io direi di cambiare format della trasmissione e di fare una trasmissione a Lorenzo Arbore. Qualcuno della radio potrebbe prestarsi come Nino Frassica. Sarebbe veramente sarebbe molto duopo. Sì, però sarebbe dura. Duopo. Come fai a fare un capolavoro del genere? Beh, è possibile. Però anche provarci. Perché no? Perché no? Ma noi oggi sì, in qualche modo parleremo di un comico. Un comico, un biondissimo Un comico pieno di potere. Pieno di potere e... Non è Grillo, però. No, sì. Grillo fa meno ridere, probabilmente. Però i capelli sono caratteristici in entrambi i casi, effettivamente. E quale altro indizio possiamo darvi? Covfefe. Se qualcuno di voi legge Twitter, Covfefe, probabilmente avrete capito. E qui vengo e mi metto lì. Ho detto sì. Vengo dopo il TG. Vengo dopo il TG. Per star vicino a te. Eh sì, signore e signori, parleremo proprio di lui questa sera. His della... Majesty La chioma arancio tira alla brusca. La chioma arancio ci piace un sacco, tant'è vero che io e la Nenia viriamo verso quel colore, in qualche modo. Sì. Siamo affascinatissimi. Solo arancio Trump. Ecco chi sarà l'ospite ad honorem della nostra serata. Sì, ebbene sì. Questa ci spostiamo così, no? È stato più forte di noi. Da quel donne ragazzi, grammatica e media. Che il fascino chiama e la brusca risponde. D'altronde siamo donne. Proprio sicuramente. Però in realtà questo shift, come si direbbe appunto in linguistica, non è come dire, così casuale, no? Perché abbiamo parlato nelle ultime... Si fa un caldo da morire. Abbiamo parlato negli ultimi mesi di genere, di grammatica, genere femminile, grammatica e queer, e anche di linee guida per l'uso del genere del linguaggio amministrativo. E questa settimana, anzi alla fine della scorsa, alla ribalta delle notizie, è uscita questa traduttrice italo-americana, Santa Donna, che si chiama, ve lo dico subito, perché è italo qualcosa. Non me lo ricordo. Nemmeno io, mi si chiama Elisabetta Savigni Ullman. No, è italiana e ha sposato uno straniero, tutto lì. E se andate a cercarla nel motore di ricerca per immagini, troverete questa signora, oltre la mezza età, bionda, molto elegante, che guarda il nostro signor Covfefe, poi vi dirò che cos'è Covfefe se non lo sapete, guarda allibita, al limite proprio dello straniato, Donald Trump. La nenia si è bloccata. Nemmeno quando le scimmie ti rubano le noccioline dalle mani, esatto. Fai con la faccia lì, capito? Chissà cosa stava dicendo Donald qui. Sì, poi ho visto anche altre foto in giro l'altro giorno su, è veramente sì, notevole. Ma te lo immagini lei che, cioè, che lavoro fa? Sì, faccio l'interprete. Sì, l'ultimo lavoro che ho fatto l'interprete per Donald Trump. E infatti, cioè, io anche sto facendo la sua stessa faccia. E chiaramente quella finirà nella pagina del podcast. Ovviamente, della Brusca, ovviamente sarà lei. Il nostro mito. Metterò proprio lei. Il nostro mito, dopo aver parlato dell'associazione Giulia, della ministra Anselmi, dopo aver parlato di queste eroine tipo la Robustelli, che popolano le pagine dell'Accademia della Crusca, quella vera, oggi passiamo proprio dalle stelle alle stalle e vi parleremo di due articoli che sono usciti la settimana scorsa, ovviamente a carattere a tema linguistico, molto belli: il dizionario ragionato della neolingua di Donald Trump e una traduttrice spiega cosa significhi tradurre Trump. Quindi siamo... No, vabbè. In questo limbo, come dire, in questo limbo tra cronaca, dove il confine è sottilissimo, e tra linguistica. Questo limbo del ma chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare? E più che altro a me, mi si accappona un po' la pelle a pensare che Trump, proprio come gli adolescenti di oggi, abbia una neolingua, ha affondato una neolingua. Vabbè. Tutto può succedere. Tutto può succedere ormai, in questo... Questo, com'era Daria, com'è che diceva, in Sick Sad World, in questo pazzo mondo malato. Comunque, il Covfefe, digitate anche quello intanto che cercate le foto di Elisabetta Ullman e cercate Covfefe, C-O-V-F-E-F-E. Trump, un paio di anni fa, in uno dei suoi deliri cinguettati su Twitter, ha scritto un tweet che finiva... Non si sa per quale motivo con Covfefe, che non vuol dire assolutamente nulla, forse gli è caduta la... Secondo me c'era il gatto negli occhi. Il gatto è passato lì sulla tastiera e piti pitu pitu pitu. E lui ha fatto un po' di pane sulla tastiera e l'ha lasciato, dai. Non si spiega. Quindi, secondo voi, oltre al Covfefe, quando un traduttore incontra una neolingua, che cosa fa? La interpreta, fa quella faccia lì. È un problema. E ne parla un articolo della Repubblica, della sezione cultura culturale, dicendo che è un bel problema perché da livello professionale diventa anche un livello poi morale, cioè un qualche cosa che coinvolge il traduttore fino a questo punto. La faccia della Ullman non testimonia, perché tradurre non è soltanto trasporre, no, un linguaggio in un altro, quindi fare una trasposizione. La nenna ci lascia un secondo. Ma è compiere proprio una sorta di collegamento e di ripristino anche del senso reale, no, di una frase. come dice l'articolo della Repubblica, che è uscito il 15 di ottobre, è compiere una ricognizione del significato di una frase e ricrearne il senso in un contesto culturale ovviamente diverso. Prendiamo una traduzione da una lingua a qualsiasi altra lingua, tutti i romanzi più o meno che noi leggiamo che vengono dall'Inghilterra, dall'America, dalla Francia, non sono stati solamente tradotti, ma sono stati anche appunto trasposti in una dimensione culturale che, per quanto conosciuta, è comunque diversa. Ma cosa succede quando si parla di Trump? Intanto possiamo dire che un testo, qualunque testo, rappresenta molto più della somma delle parole e degli elementi semantici, no, di cui è composto, proprio come dicono in questo articolo. Quindi interviene in questo caso Bérengère Viennot, una studiosa, una sociolinguista, che ci parla appunto di questa neolingua trampiana. Viene definita come sintetica e scorretta, quindi tutto ciò che non ci si aspetta da una lingua propriamente detta, ma è tutto ciò anche che rispecchia un po' l'evoluzione di oggigiorno, di questi tempi, della lingua. E come si diceva prima, Trump sta inventando una neolingua che ha quasi i requisiti delle neolingue degli adolescenti. Più o meno funziona così. Allora, vediamo un po'. Tra l'altro questa espressione della traduttrice è un'espressione terrorizzata, ovviamente l'interprete italiano in visita a Washington, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante il discorso di Mattarella, quindi mentre Mattarella era impegnato in una conferenza stampa con l'omologo statunitense, in questo botta e risposta, per quanto pacato, insomma, la Ullman non è riuscita a interpretare del tutto ciò che Trump diceva. Non si sa se perché non era in grado di tradurlo, dubito fortemente, quanto forse perché era totalmente allibita e nella traduzione c'è un tempo di reazione che deve essere comunque immediato, soprattutto nella traduzione simultanea come in questo caso, no? E quindi la Sevigny Ullman è rimasta così, con un'espressione terrificante e terrificata sul volto. D'altronde non è semplice, si passa dalla verve di Mattarella è notoria, no? La verve di Mattarella, puoi dire tutto quello che vuoi, però in quanto a capelli, Mattarella 1, Trump 0. Assolutamente. Se permetti. È così. Passiamo anche all'articolo che è uscito su Wired.it. Ne hanno parlato tutti di questa cosa. Che bello. Praticamente la specialista... È stato un piacere. È stato bello. Le prime pagine. Però non ti giorni. Viene da pensare come il mondo sia nettamente diviso in due, no? Cioè ci siamo noi che ci rendiamo conto di queste cose e i cretini che votano Trump. Io non credo più al voto, cioè secondo me non esiste gente che vota Trump, è tutta una farsa, non è possibile. No, purtroppo... Sì, una piccola parte è quella che viene fuori poi nei film dove la gente poi si ammazza, fa le robe brutte, però non sapevo di essere incinta. Sì. Pensavo di essere gonfia. Ho partorito alla toilette dell'autogrill. Ho mangiato 6 o 7 hamburger. Sì, ero alla gara dell'hamburger. Visto quelle gare che fanno, tipo, se mangi 10.000 hamburger non le paghi, queste robe. Vabbè. A me sembra assurdo che riescano a ovulare anche. scusate. È bello sapere che l'Accademia allora della ti do Brusca... un po' di respiro. Ah. Vengo e rimango lì. Dicevi? No, l'Accademia della Brusca comunque è una risorsa, Creative Commons, quindi certo. È molto bello sapere che ma probabilmente... Ma avevi dei dubbi? No. No, mica per quello, però nel senso è molto bello sapere che probabilmente tra qualche anno qualcuno porterà questa lezione, scusate, questa lezione, questa puntata, magari in una lezione universitaria o, o alle superiori, forse dei meccanici. Voglio la puntata sbobinata messa nelle dispensie. No, magari la ascoltano così velocemente, la mandano avanti e poi non sanno che noi diciamo queste cazzate in mezzo. Che bello. E quindi, insomma, perché la Ullman ha fatto questa faccia? Perché in questo siparietto durato un'ora scarsa con la stampa, Trump parlava di Turchia, di Russia e Siria, facendo delle battute agghiaccianti sulla popolazione curda. Siamo a un paio di giorni dopo la sua affermazione, ma i curdi non ci hanno mai aiutati con lo sbarco in Normandia, quindi insomma. E quindi fuoco e fiamme. In questo caso la traduttrice ha iniziato a guardarlo spaesata con uno sguardo incredulo, esterrefatto e terrorizzato. Ovviamente è stata già definita nel limbo dei social media il simbolo di tutti i sani di mente rimasti nel globo, no? E quindi una persona, come si diceva prima con la nenia, probabilmente ancora in grado di spaventarsi davanti a delle affermazioni del genere. Ma non è questo il tema della serata, questa è soltanto l'introduzione. Perché per capire meglio che cosa c'era dietro quegli occhi sbarrati, dobbiamo chiedere l'aiuto di una traduttrice e linguista studiosa francese che si chiama, come abbiamo detto prima, Bérengère Viennot, che ha appena fatto uscire un saggio in Italia che è stato intitolato La lingua di Trump, dove appunto viene codificata la neolingua trumpiana, che cosa significa, di quali strumenti si serve, quali meccanismi comunicativi e soprattutto che tipologia di vocabolario. Ora, noi non l'abbiamo ancora comprato, è uscito la settimana scorsa, però abbiamo un po' di materiale di cui parlare. Ed è molto bello, no, vedere come il salto che è stato fatto dalle altre puntate a queste sia in realtà poi un salto, diciamo, di attinenza. Siamo sempre nello stesso ramo e campo. Si parla di linguistica, si parla di lingua, si parla di donne. E in questo caso si parla di donne che effettivamente analizzano il linguaggio di un potente, cosa che generalmente non succede, ma come abbiamo visto ci sono grossi problemi, no, nel linguaggio. Ah, perché potresti leggere cosa c'è allora scritto? Allora, se tu metti su Google o qualsiasi motore di ricerca, che tipo io ne ho un altro, ma più o meno penso il risultato sia quello, metti Trump e cazzate. La query è uno spettacolo. E preso dalla stampa, nemmeno da chissà che, c'è la lista delle 10 frasi più stupide che ha detto Trump negli ultimi anni, una delle quali è: non ho mai visto una persona magra bere una Coca-Cola Light. Poi c'è: la mia bellezza è che sono davvero ricco. E poi abbiamo che bello, se Hillary, ragazzi, Clinton non può soddisfare suo marito, cosa le fa credere di poter soddisfare gli Stati Uniti, ragazzi? C'è roba ghiacciante. A New York si gela, noi abbiamo bisogno del riscaldamento globale. Sto facendo le facce della UMA. Sì, esatto. Dobbiamo trovare il modo di chiudere internet per arginare il terrorismo. L'effetto serra è una balla inventata dalla Cina. Basta, mi arrendo, non ne voglio leggere. Pensavo dalla Cina. Sì, peggio, dalla Cina. E ti prego, consolami. Sì, abbiamo bisogno. Ho bisogno di sentirmi. Ho bisogno di sentirmi in un modo che solo tu sai. Incredibilmente donna. Buono, ci sto. Quanti invece di grandi infinito, del corpo faccio sicuro riparo, della mia anima invece tesoro. E mentre l'amo così intensamente, in cambio lui mi piega la mente, calpesta ogni mio sentimento e dire che io vorrei volare e avere cieli dai mille voli liberi, essere donna, davvero una donna, con il suo posto preciso nel mondo. E nonostante la mente mia si ribelli, il corpo quello non gli corrisponde, per cui quando vengo a dormirmi sul seno, non ho più me questo amaro veleno e mi sento una donna, donna. Un'idea che nasce, un'idea che cresce, una del mio dolce volo, la realtà resta sempre una sola, io che con gli altri continuo a imparare che la mia vita è solo sbagliare. Per ore ed ore sto a guardarmi allo specchio per definirmi poi un inutile straccio, ma quando ritorno a dormirmi sul seno non ho più me questo caso non avessi capito, era incredibilmente donna. Esatto. C'è stato anche un bellissimo dialogo tra me e la Nelly sui vecchi gossip degli anni Ottanta e sulla verifica. Non, vabbè. Allora, continuando con il nostro tema. Posso leggerti sì? Un'altra frase sì. Di Trump? L'unica differenza fra me e gli altri candidati è che io sono più onesto e la mia donna è più attraente. Sti cazzi. Capito? Che schifo. No, vabbè, questa non la leggo nemmeno perché... No, basta. Se vuoi è finita. È finita. Ora, io me ne vado. Ciao. No, intanto io vi leggerò quella terribile che ha fatto fare quell'espressione alla traduttrice. Cioè, sì, dai. I curdi hanno moltissima sabbia con cui giocare. Io ti ci impalerei. E no, però hai visto, sarebbe bello, tipo la buca con solo la testa fuori in tutta quella sabbia. E tanti quanti calci. Quanti giochi. E quanti calci. Quanti giochi. No, ma il sole fa tutto il resto. Sarebbe no, un gioco stupendo no, da no, fare. No, è impossibile, lo vedi che colore è. Ha già fatto tutto il possibile, il sole, il buco dell'ozono. Già. E quindi... è stato chiesto alla Bérengère, quindi a questa traduttrice che ha scritto appunto il libro sulla lingua di Trump, e se in caso la traduttrice fosse esterrefatta per quello che aveva appena sentito o se effettivamente non era stata messa in grado di tradurre correttamente. e quindi non era stata messa in grado di fare quello che il suo lavoro, insomma. Vabbè. E la traduttrice, che ha ovviamente ascoltato tutto questo, tutta questa conferenza stampa, dice che anche lei sarebbe stata colta di sorpresa da queste uscite, per quanto sia estremamente consapevole che Trump è in grado di dire cose assurde. Però, dice, un interprete professionista come questa, la traduttrice italiana, appunto, si era sicuramente preparata per l'incontro, quindi sa chi è Trump, sa di cosa parla e di che cosa è capace. Però per quanto tu possa essere pronto, il pubblico, scusate, il presidente degli Stati Uniti può sempre sorprendere tutti quanti con il suo trumpismo, e qui il nome della neolingua. E perché? Perché Trump affronta un argomento, spesso affronta argomenti che non padroneggia, e non avendo mai imparato i codici della comunicazione del linguaggio politico, si serve dei codici comunicativi tipici del commerciante, della persona che nella sua vita ha speculato, o non che i commercianti speculino, ma che lui ovviamente ha speculato, e di conseguenza è il linguaggio, insomma, del trading. E di conseguenza la traduttrice, probabilmente consapevole anche di questo meccanismo mentale di Trump, si è trovata doppiamente sbalordita. E come ha fatto, viene chiesto poi sempre ormai la nostra amica la Beringer, come ha fatto Trump a cambiare le regole della comunicazione politica facendo saltare il banco? È proprio il tema del libro, no? Che è stato edito da Einaudi, è uscito la settimana scorsa. Ci dice la Beringer che Trump è estremamente diverso dai suoi predecessori da tantissimi punti di vista. Come dicevamo prima, non viene dal mondo della politica, ma viene dal mondo del business e quello della TV, dei reality. Io questa cosa non la sapevo e vorrei continuare ad ignorarlo, se possibile. Devi. E poi, dopo il pronostico fatto nella, mi sembra, quinta stagione dei Simpson, in cui Homer diceva che un giorno Donald Trump sarebbe diventato presidente. Oh wow, no, correva al 98. Mi mancava. Eh sì. E così è successo, Trump è diventato realmente presidente, aveva ragione Homer. E quindi è stato un evento traumatizzante, anche perché era enormemente preparato alla cosa. Però Trump ha deciso di non adattarsi di conseguenza, e quindi ha continuato a essere chi era sempre stato. Abbiamo un qualcuno che fa la stessa cosa anche nel bel paese, con la sola differenza che probabilmente non ha mai lavorato un giorno in vita sua. L'unica cosa che si può dire di Trump è che probabilmente ha lavorato giorno e notte per un buon periodo della sua vita, male, facendo cose aberranti. Giorno, o anche solo notte. O anche solo notte, però insomma. L'ha fatto. Almeno l'ha fatto. E quindi ha continuato a rivestire il ruolo del magnate, il ruolo del personaggio televisivo che ovviamente, affetto da questo delirio narcisistico, desidera solamente essere applaudito e, come dire, amato. Quindi possiamo dire che abbia una carenza amate affettiva. Trump. Amate per Trump. Per favore, fatelo. Vogliategli bene, magari torna. Migliorerà mai. Speriamo nella regressione, invece no. E, ovviamente questo è un meccanismo comunicativo che si ripete in buona parte dei politici, probabilmente anche in Mattarella in tutta la sua cucciolevolezza insulsaggine, però abbiamo messo un bigliettino sullo schermo della regia: amate Trump, per favore. E, Trump però fa anche un'altra cosa, parla a tutti quanti alla stessa maniera, a prescindere che si trovi, non so, appunto alle Nazioni Unite o che si trovi davanti alla nipotina di 7 anni per Natale. O alla partita di briscola al circolino. Al circolino. Avete letto la lettera che ha mandato a Erdogan? No, non voglio sapere niente. Con quella firma, che tra l'altro è la firma di Batman. Né dell'uno né dell'altro. Però sì. È la firma di Batman. Allora, vabbè, Allora, se non l'avete letta, tornate sul motore di ricerca delle immagini, cercate lettera Trump a Erdogan. E andate a vedere. Non leggetela, guardate subito la firma e vi renderete conto che è la firma di Batman. Secondo me, cioè, non può essere altrimenti. Comunque, è un... è una lettera che manca di qualsiasi piglio retorico, di qualsiasi codice anche comunicativo, diplomatico, internazionale, ma sembra che abbia scritto un messaggio all'amico che non vede da 2 settimane. E amici non sono, tra l'altro, Erdogan e Trump. E, quindi Donald Trump, possiamo dire che nella sua neolingua parla senza filtri e senza nemmeno considerare, quindi qua siamo veramente in una mancanza da un punto di vista comunicativo molto forte, parla senza nemmeno tenere conto del referente, senza nemmeno tenere conto del target a cui si sta rivolgendo, no? Quindi è una cosa... Nell'articolo dicono inusuale, lo è per la comunicazione politica e non lo è nemmeno per il mondo normale. Per me non è inusuale, è un qualcosa di più di inusuale. E quindi qui il quesito, no? Tradurre Trump è un lavoro che risulta molto più difficile nella media. È possibile? Per quale motivo? E la Berenger dice: all'inizio era terribile. Ero abituata a tradurre e leggere discorsi politici regolati da codici precisi. Hai iniziato a prendere psicofarmaci e la vita è tutta in discesa. Benzodiazepine, hai iniziato a prendere antidepressivi, chiaro, antiemetici. Povera, ma ci credo, per forza. E quindi, perché dice, è una cosa terrificante, perché come tutti i traduttori che lavorano nell'ambito politico e istituzionale sono tutti abituati ad avere a che fare con dei codici precisi che regolano i discorsi politici, parole scelte con attenzione, punti chiave, ci sono delle scalette ben precise per sviluppare un linguaggio, scusate, per sviluppare un discorso, per esempio al Parlamento europeo, no? E con un messaggio chiaro che il parlante desidera trasmettere. Ma tradurre, come dicevamo prima, non è una questione che riguarda solo le parole e non è nemmeno una questione di comprensione e basta di una lingua straniera, perché tutto questo è ovvio, ma è importante saper restituire un messaggio, una sensazione, un contesto che viene rimaneggiato ma che deve rimanere pertinente a una situazione culturale, no? E quindi mantenere, diciamo, fede all'originale. Io credo che da questo la Ca' Foscari di Venezia faranno un modulo universitario. Probabilmente. Mi immagino anche Cucci che dedica 6 mesi di corso a Trump. A come tradurre Trump. Madonna. Non voglio. Tutto può, anche lì tutto può succedere, sai. E quindi, insomma, la ragione per cui restituire il mondo di Donald Trump è una questione di tradurre il suo messaggio, dice, e soprattutto di riportare il contesto in cui avviene, ma è molto difficile, perché se la maggior parte delle volte, diciamo, le sue parole sono estremamente semplici e immediate, good, great, bad, terrible, talk e così via, ma se vengono messe tutte insieme non costituiscono un messaggio semplice da rendere. Allora, c'è una regola della scrittura che è basata su regole linguistiche che dice che i binomi linguistici, addirittura i trinomi linguistici, devono essere scremati. Si parla quindi di sequenze all'interno di frasi brevi dove vengono ripetuti 3 volte di fila dei sostantivi e degli aggettivi, e questa è una cosa che quando si edita un testo va, come si dice in gergo, mondata, no? Vanno levate, va trovata un'espressione unica che possa contenerle tutte e 3, se c'è data la possibilità di farlo. Ecco, ora pensate voi come possa essere possibile farlo per Trump, che usa nel suo linguaggio 6 aggettivi e basta, però tutti insieme. E quindi a Trump mancano le abilità fondamentali di presidente, perché poi non conosce nemmeno la storia, la politica internazionale, e spesso non sa nemmeno lui dove sta andando a parare. Vabbè, tutto frase d'effetto. quindi lì. Però appunto la Berenger si chiede come fai. Il problema è che cioè, non andrebbe tradotto, secondo me. Non andrebbe lasciato in lingua originale. Come sì, un... finisce lì. Come film di Tarkovsky. Sì, dai, onesto. Vabbè, facciamo una cosa. Si fa, gli si dedica un bel pezzo a Trampettino e poi parliamo delle parole d'odio, dei tweet, dell'incitazione alla violenza. Tutto violenza. Odio e terra bruciata. La terra bruciata. Sia proprio come la pioggia che cade sulla terra bruciata dal fuoco. In fondo l'ho sempre saputo, io non sarei mai riuscito a cambiare niente, e penso che ogni azione sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire. Non c'è niente che possa aggiustare, nulla che io riesca a fare. Affranti, la terra bruciata dal fuoco. Gli affranti non ci sono più, purtroppo, e quindi era carino mettere un pezzo che si sono sciolti pochi mesi fa, se non sbaglio. E quindi era carino metterci, insomma, un pezzo che ricordasse questi nostri cari amici. E ora abbiamo due chicche. Domanda numero uno che viene fatta alla Berenger. Come pensi che influenzino i discorsi di violenza di Trump non solo chi lo sostiene, ma anche lo stesso sistema democratico che presiede? Bellina come domanda, eh? E c'è un esempio fantastico. E poi, la comunità di esperti linguistici è riuscita a venire a patti con Donald Trump? La vedo dura qua. Allora, c'è un esempio che può rispondere alla prima domanda. Allora, a giugno 2015 correvano ancora i tempi di Obama, Quando una sparatoria in una chiesa uccise 8 fedeli e il loro prete, il presidente Obama si è mostrato dolorato in pubblico e ha cantato l'inno di Amazing Grace. Ad agosto del 2017, a Charlottesville, un suprematista bianco ha ucciso una giovane donna. Il presidente Trump ha dichiarato che erano brave persone da ambo le parti. Quindi, dice la Bérengère, credo che questo sia un momento fondamentale della sua presidenza, in cui la violenza delle sue parole ha fatto da eco alla violenza che ribolle in alcune parti d'America. Facciamo anche una miccia, perché con le leggi che ha promulgato, effettivamente. Il problema principale di questa violenza trumpiana è che rimarrà lì molto, anche dopo la fine della presidenza Trump. Enormi masse di persone hanno votato per lui, credono ancora in lui e lo supporteranno ancora. Questa gente non scomparirà semplicemente quando Trump lascerà lo studio ovale, perché ora sentono di avere una scelta e anche loro sono il volto della democrazia americana. Almeno ora sappiamo chi è Trump, come si comporta, anche se in modo imprevedibile, ma ciò che si lascerà dietro, dice la Bérengère, mi spaventa anche di più. E l'altra domanda, la comunità di esperti linguistici è riuscita a venire a patti con The Donald, perché lui viene chiamato anche The Donald, il Donaldo? Beh, credo di sì. È stato singolare doversi adattare all'inizio, ma ora penso che abbiamo capito come funziona e soprattutto abbiamo capito che il modo in cui dice le cose è importante come il morale della favola, se non di più. Prima provavamo a tradurlo come tutti gli altri politici, quindi magari correggendo piccoli errori qua e là per assicurarsi che la frase suonasse chiara, ma ci sbagliavamo di grosso, non avevamo capito. Donald Trump è gli errori che fa e se provi ad appianare ciò che dice, lasci fuori una parte del messaggio. Quindi, per il meccanismo non censorio della traduzione, bravi, avanti così. Traducete tutto in maniera assolutamente affine. E, Twitter poi viene chiesto sempre alla traduttrice se in qualche modo ha contribuito a formare il gusto di Trump per le ingiurie e i toni minacciosi. Effettivamente, per quanto si pensi che magari ci siano altri social adatti a persone come Trump, come Facebook, invece no, Twitter è stata la chiave del suo successo, lo ha aiutato a costruire una figura pubblica che molti apprezzano. E ovviamente il mezzo ideale, perché un tweet è una frase brevissima, un uomo che poi non ha una grande dimestichezza così, una grande proprietà di linguaggio, una dimestichezza con le frasi lunghe, con i pensieri connessi, qui trova veramente il fango in cui sguazzare. Ed è anche una specie di troll, quindi nel suo linguaggio, cioè, adopera il suo linguaggio per fare anche il troll, perché Crooked Hillary, Nervous Nancy. Quindi crooked è, cosa vuol dire? Storta. La storpia, Hillary, e la nervosa, isterica Nancy. E quindi, secondo lui, queste parole finiscono come in una massa informe senza fondo e probabilmente non hanno un'importanza specifica. Ma non è così, perché l'articolo finisce dicendo che comunque, come si dice in Italia, siamo le parole che usiamo. E quindi, molto probabilmente, Trump è un'allegoria vivente del mondo che abbiamo costruito. Le parole sono importanti! Ecco, palombella rossa, esatto. E quindi direi che per oggi ci possiamo fermare. Sì, è il finale della nostra puntata, che durerà 3 minuti meno rispetto al solito. Registrando dobbiamo stare molto attenti. Esatto. Ricordiamo i social Wombat, sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, mail postawombat@insiberia.net. E per tutti gli appuntamenti, ce ne sono tantissimi in questo fantastico ottobre. Wow! Troverete tutto su lapunta.org, un grande scatolino di annunci, ritrovi, una grande agenda di cose belle da fare in giro per la città di Firenze e a volte non solo. Sì. Noi facciamo le finte pigre, non vi diciamo gli appuntamenti perché dovete assolutamente andare a visitare questo nuovo contenitore. Tanto quindi siamo registrate, quindi questa è la nostra grande svolta. In qualsiasi situazione, in qualsiasi giorno, replica o no, diretta o no, registrazione o no, lapunta.org. Sconfiggi l'anacronismo con lapunta.org. Perfetto. Bene, allora ci lasciamo con l'ultimo pezzo. Che posso dire come si chiama? Sì. The Flammable Man. Niente a caso qui alla Brusca. Ciao Nina. Ciao Nenia. Ciao a The Donald, al Donaldone. Ciao a tutti voi. Speriamo pigli fuoco. E buona serata. E buona ci sì, alla prossima. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Something about it.